l'occupazione della Montagnola, che prospetti, dalla vostra prospettiva che cosa vedete? Perché giù abbiamo appena sentito una compagna che ci raccontava delle cariche. Buongiorno, siamo sul tetto dell'occupazione della Montagnola, siamo stati circondati da camionette sia dei carabinieri che della polizia, pare che siano già entrati da una parte del palazzo. Ci sono stati i primi scontri per strada con parecchi feriti compagni di altre occupazioni che sono venuti a dare sostegno alla nostra occupazione. Ci sono stati due tentativi di sgombero per quanto riguarda il flusso di gente che si era fermata sotto per solidarietà nei nostri confronti. In questo momento siamo tutti barricati all'ultimo piano del palazzo e aspettiamo insomma che arrivi la celere. Quindi tu dici che sono già entrati in una parte del palazzo? In una parte del palazzo pare che siano già entrati. Però siccome sono l'edificio è costituito da quattro palazzi uguali ma che non sono comunicanti tra di loro, quindi troveranno difficoltà a entrare nel palazzo che abbiamo, dove siamo praticamente in questo momento noi occupanti. Senti, per quello che puoi vedere te, a quanto ammonta il dispositivo di polizia in campo? Abbiamo allora sul lato destro del palazzo tre camionette dei carabinieri più altre macchine della polizia, mentre sul lato sinistro ci sono quattro camionette della polizia con tutta la loro disposizione. Scusami, ti sento pochissimo, ci sei ancora? Sì, ci sono. Ecco, quello che ti volevo chiedere è dall'alto, riuscite a vedere i compagni che sono giù in solidarietà? Sì, adesso si sono radunati nuovamente sotto il palazzo, c'è stato, come ho detto poc'anzi, un tentativo di sgombero da parte della polizia per disperdere tutti i nostri compagni che erano venuti a darci supporto. Ma in questo momento si sono raggruppati nuovamente sotto l'edificio occupato. Senti, è sempre dal lato di Via Ravà si sono radunati? Si sono radunati perché prima il presidio era all'angolo fra via Baldassarre Castiglione, che è la via dell'occupazione, e via Adolfo Ravà. Si sono radunati sempre da quel lato? Esatto. Ok, esatto. Perfetto, così riusciamo anche a dare indicazione a coloro possano venire a dare una mano di raggiungere sempre quel lato lì della strada. Perfetto. Va bene, perfetto. Grazie mille, ti ringraziamo. Senti, se ti appare il numero della radio, chiamate voi immediatamente se ci sono sviluppi dello sgombero, va bene? Perfetto. Grazie mille, buona giornata. Ciao.